I slick chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I slick chick. Yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I stick chick. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm. She's with Ryan. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta stick it. She, it's a neat trick. But she, what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click click click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta yeah, yeah. Click a little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Eccomi. Eccomi, eccomi, finalmente sono tornata, Slick Chick, 16 maggio 2018, ovviamente 21 e 16, numero che ricorre oggi, il 16, e sì, lo so, sono stata lontana veramente troppo tempo, non mi ricordo neanche più come si sta dietro a un microfono, e me ne sono successe un po' di tutte, non brutte, non vi preoccupate per me, lo so che vi eravate un po' preoccupati, i miei numerosissimi fan erano lì che dicevano oddio che è successo. No vabbè, cose banali e stupide come dimenticarsi a casa le chiavi della radio o l'hard disk dove si ha la musica. Vabbè, un po' sdatta, la primavera mi ha reso un po' inetta, ma mi farò perdonare con una puntata che doveva già andare in onda mercoledì scorso, ma appunto poi mi è cascato un pero addosso e quindi non è successo. Puntata del ciclo ormai consueto dei registi alle grotti. Registi alle grotti pieni di vitalità e voglia di vivere che ogni tanto su Slick Chick raccontiamo attraverso la musica dei loro film. E dopo Jim Jarmusch, che in realtà non è così tremendo, effettivamente forse è il meno adatto a questo ciclo, devo dire. E poi abbiamo parlato di Lynch e lì, un pochino ci stava. Poi Cronenberg, eppure lui un pochino ci stava sulla definizione di regista alle grotte. Dopo tutti loro arriviamo alla Corea e a Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, perché sappiatelo, lo so che tutti voi, quei 10 che lo conoscono oltre a me, vi state chiedendo, come vi siete sempre chiesti, ma come si pronuncia, maledizione, il nome di questo regista, che è scritto Kim Ki-duk, e noi raccapezziamo, siamo lì che cerchiamo di dire Kim Ki-duk, Kim Ki-duk, perché sarà un parente di un'anatra, chissà. Io al Corea Film Festival di Firenze ho scoperto che la pronuncia occidentale che più si avvicina probabilmente al giusto è Kim Ki-duk, e quindi la faccio mia, l'ho presa per oro colato. Io d'altra parte mi attengo agli ordini e quindi per tutta l'intera puntata ripeterò a pappagallo Kim Ki-duk. Lui, proprio lui, giusto per rimanere sul pezzo e stare proprio in cronaca, perché comunque sia Slick Chick, lo sapete, ci tiene a essere sempre sul pezzo e a non farsi sfuggire l'attualità. Kinky Doc ha rilasciato la seguente dichiarazione a Cannes, al Festival di Cannes, in particolare alla conferenza stampa di apertura. Sento la vostra preoccupazione per la violenza, ma vi invito a non dare giudizi sulla mia personalità a partire dalle mie pellicole. La mia vita non è come i miei film, vabbè, meno male, ci sarebbe da dire. Nel privato cerco di essere una brava persona. Questo perché? Perché effettivamente Kinky Doc è stato travolto, perlomeno implicato in una, non una ma alcune denunce per molestia. E non, allora devo dire, alla notizia io sono un po' cascata dalla sedia, lo ammetto, mi ha messo in crisi. Kinky Doc è uno dei registi che amo di più e quindi ho detto no, e vabbè, però no. Ecco, io sospendo un po' il giudizio, non mi sento di dare giudizi di merito perché onestamente la Corea è un paese troppo lontano, Hollywood men che meno, non ne so niente, non mi sono manco informata tanto, devo dire, mea culpa, quindi sospendo il giudizio. Se il Radio Wombat mi darà un finanziamento, di cui ho fatto ovviamente richiesta in carta bollata, mi verrà pagato il viaggio per andare e volare fino alla Corea del Sud e raggiungere Kinky Doc e indagare personalmente su la veridicità di cotante accuse. Finché non posso sapere di più, francamente ho deciso che la puntata la facevo lo stesso e sospendo il giudizio in merito. Quindi è così, ecco. Diciamo che c'ho una macchia, un'ombra che pesa su questa cosa, un po' mi sento con le spalle al muro, ma finché questa cosa non verrà appurata io sospendo il giudizio e vado avanti e faccio finta di niente, come quelli che si tappano le orecchie e canticchiano e fanno finta di nulla. Quindi iniziamo, anche perché ho parlato già troppo, sono già le 21:21 su Radio Wombat ovviamente e dobbiamo dire tante cose. Allora, cito innanzitutto da spietati.it, rivista di cinema online, Kinky Doc, lo sguardo non è mai dottrina e vuole abbandonarsi all'immagine pura, visione nuda e senza imbarazzo. Tra i tratti ricorrenti distintivi di Kinky Doc si rintraccia sicuramente l'alterità come ricerca della propria condizione, la violenza come stato d'animo, un continuo e direi anche spiazzante depistaggio sentimentale, l'intreccio stretto tra Eros e Thanatos, questo ricorre in maniera veramente, direi praticamente sempre, ma Kinky Doc è sopra ogni cosa disturbante, direi che forse questo è l'aggettivo che lo caratterizza di più, sempre, più di tutto, perché vive in un mondo che ha bisogno, almeno secondo me, di essere disturbato e brutalizzato e capovolto magari anche. La mutilazione che ricorre nei film di Kinky Doc, mutilazione fisica o no, è simbolo di un estremo senso di impotenza di fronte al mondo e alle relazioni che viviamo. D'altra parte, Kinky Doc abita in una Corea devastata, una Corea volutamente dico, non entriamo se nel sud o nel nord, ma in particolare, ecco, almeno da questo punto di vista, la Corea del Sud è devastata dal capitalismo, ammutolita dalla sudditanza coloniale degli Stati Uniti e insomma i film di Kinky Doc non possono non raccontare tutto ciò. Kinky Doc è nato il 20 dicembre del 1960 a Bongwa. Allora, ora piccolo inciso, pronuncerò malissimo qualsiasi nome orientale che c'è in questa scaletta. Perdonatemi, d'altra parte che devo fare? È così, anche qui ho fatto richiesta per delle lezioni di coreano, ma finché non mi arrivano, accontentatevi. È nato appunto nella città di Bongwa, nella regione del Gyeongsang, nella Corea del Sud, e all'età di 9 anni si sposta con la famiglia a Seoul, dove frequenta un istituto professionale dedicato all'agricoltura. Finita la scuola dell'obbligo a 17 anni, a causa delle difficili situazioni economiche della sua famiglia, è costretto ad andare a lavorare come operaio in fabbrica, in una fonderia in particolare, se non sbaglio, per sostentarsi fino a circa 20 anni. Poi si arruola subito dopo, ventenne, si arruola in marina, per circa 5 anni e in quel periodo è accolto da una crisi religiosa. La sua strada incrocia quella di una chiesa per menomati della vista, con l'intenzione appunto che Kinky Doc decide di diventare un predicatore. Beh, direi che poi quella strada proprio non la prende e mi sento di dire onestamente per fortuna. Yagum Sanjo, chissà che ho detto, Variation, suonati da Hwang Byung-gi nel 1966 con appunto il Kayagum, che ammesso che se lontanamente e vagamente si dica così, è una cetra coreana tipica della musica tradizionale coreana, e siamo partiti da qui non perché nella musica nei film di Kinky Doc esista questo brano in particolare o questo musicista in particolare, ma perché serviva un po' da introduzione per la Corea e le sue ambientazioni musicali. D'altra parte, lo vedremo poi nel corso di questa scaletta, così come era stato un po' anche per Cronenberg, devo dire, tirare fuori delle musiche da la colonna musica dei film di Kinky Doc non è proprio banalissimo, ecco, e quindi insomma ho cercato di essere varia, ma è anche perché onestamente spesso non è che proprio le musiche siano la parte fondamentale dei suoi film, né la parte più bella, ecco, se poi le andiamo a analizzare. E tra l'altro non la più trovabile, perché veramente se già i film suoi sono per amatori, ecco, le musiche proprio è difficilissime trovarle, quindi accontentatevi un po' di quello che sono riuscita a trovare. Dicevamo, Kinky Doc nel 1990, abbandonata un po' questa sua fissa del momento religiosa, per fortuna accantonata dopo poco, nel 1990 abbandona la Corea e si trasferisce in Occidente, a Parigi in particolare. Lì coltiva la sua passione per la pittura, passione che ha tuttora, almeno da quanto se ne sa, e si mantiene vendendo i suoi quadri, anche se poi non ha mai esposto ufficialmente Kinky Doc, insomma, però tant'è, comunque sia, un po' ci è campato, almeno per un po', e piano piano inizia ad avvicinarsi lentamente al cinema, ma senza nessun tipo di preparazione accademica, e muove i primi passi come sceneggiatore. Il debutto alla regia però è nel 1996 con Coccodrillo in italiano, il film che racconta per sommi capi la vicenda di un uomo che vive aspettando sotto il ponte di un fiume i suicidi, coloro che si suicidano, è un'occupazione come un'altra, per poter sottrarre poi ai cadaveri i loro averi. Evidentemente già il fatto che se ne possa fare un mestiere già ci fa capire quanto la vita nella Corea del Sud sia comunque allegra, perché evidentemente, insomma, non è una cosa così difficile che tu stai sotto un ponte e ogni tanto piovono suicidi, ecco. Il film che segue Coccodrillo è Wild Animals del 97, l'anno dopo, che in realtà avrebbe dovuto intitolarsi The Two Crocodiles, chiaramente con un rimando al film precedente. Dopo ancora, vi faccio una carrellata veloce perché sono i film che non andremo a scandagliare più di tanto. Dopo segue Birdcage Inn, dove Kinky Doc inizia ad affrontare il tema del sesso mettendolo in scena come strumento di comunicazione, cosa che poi vedremo approfondita molto nel dettaglio dopo, nei film successivi. Questo tipo di approccio si ha poi anche nel film successivo, infatti, ovvero L'Isola, con cui Kinky Doc, appunto, un Kinky Doc che è assolutamente debuttante in qualche maniera, che non aveva preparazione accademica, tantomeno spinte, ecco, e con L'Isola Kinky Doc partecipa alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Fa scandalo e scalpore, perché boh, è evidente, non può non essere così. E L'Isola in qualche modo però diventa il primo successo a livello internazionale, viene venduto in molti paesi e viene fatto partecipare e presentato in moltissimi festival. A questo punto che siamo veramente all'inizio, è strano, ma Kinky Doc, assolutamente sconosciuto e anzi assolutamente non ben voluto in patria, nella Corea del Sud, non potrebbe essere altrimenti, nel resto del mondo inizia a essere molto apprezzato, desta molta curiosità. L'Isola, appunto, del 2000, iniziamo da qui. La trama, per sommi capi, è Hee-jin vive in una piccola casa su un lago attrezzato con piccole abitazioni galleggianti, delle piccole casette, e vende ai pescatori di giorno il cibo e di notte il proprio corpo. Un giorno arriva il misterioso e turbato Hyun-sik, chissà come si dice, e tra i due si creerà un forte legame di passione e dipendenza psicologica. Questa è la brutale trama che chissà dove ho preso, forse da Wikipedia, ma non è la trama, anche se sì, ovviamente è molto importante, ma non è proprio la trama, ecco, la cosa fondamentale. La poesia in Kinky Doc è vittima della violenza, non solo in questo film, ma direi quasi sempre. Al tempo stesso però se ne nutre, si nutre della violenza. Ci sono queste immagini che sono al contempo bellissime e terribili e contengono tutta la complessità che Kinky Dog sente di dover raccontare. Nell'isola sicuramente questa cosa è proprio balza agli occhi. Io personalmente ho visto questo film rannicchiata in posizione fetale sul divano, mi hanno trovato così semimorta. Ecco, d'altra parte, che si deve fare? Colpa mia che faccio le puntate sui film coreani e sui registi coreani e poi succedono i cataclismi. E infatti nella Wombat Regia è andata giù di botto la corrente al solo nominare l'isola di Kinky Dog. Perdonatemi, non lo farò più, mi dispiace, d'altra parte mi sembrava non fosse così grave, ma l'ho fatto, l'ho dovuto fare e questa è la punizione. Proviamo ad andare avanti, chissà se questa diretta riuscirà ad arrivare in fondo, ma chissà. Comunque ho finito di parlare dell'isola, non ne volevo più parlare, avevo finito finisco dicendo che appunto non vi faccio sentire nessun brano tratto dalle musiche originali del film, bensì un lavoro che hanno fatto Ironin, che dir si voglia, gruppo italianissimo in realtà, niente affatto coreano, che hanno sonorizzato dal vivo appunto questo film nel 2013. E quindi ci ascoltiamo un piccolissimo estratto dal lavoro che hanno fatto. Ecco, questo appunto era il lavoro dei Ronin per la sonorizzazione dal vivo del film L'Isola di Kinky Dog. Social Wombat, va, ve li ricordo se vi siete addormentati e non vi ricordate più dove siete. Probabilmente siete in ascolto dello streaming, della diretta streaming, o forse delle repliche, chissà. Comunque ci siete arrivati tramite il nostro sito wombat.noblogs.org e purtroppo non tramite le nostre trasmissioni in onde medie, perché il trasmettitore è momentaneamente morto, ma si riprenderà a breve, non temete, vabbè un po' temete per noi, ma no, siate confidate in noi che ce la faremo a breve, ritorneremo sulle onde mediocri del Wombat. E poi la casella di posta, anche vi ricordo, postawombat@insiberia.net, dove potete scriverci e pagarci la bolletta della luce. No, non è vero, non è certo per quello che ci va giù la luce. Allora, dicevamo, eravamo arrivati all'isola sempre nel 2000, l'isola appunto del 2000, e sempre in quell'anno Kinky Doc gira anche Real Fiction, di un po' più sperimentale anche dal punto di vista tecnico, e pare sia stato girato in soli 22 minuti. Kinky Doc non è nuovo a fare questo tipo di cose, i suoi film vengono girati molto in fretta, ecco, non hanno dei gran parti. Nel 2001 invece è la volta di Indirizzo Sconosciuto. Vi leggo ogni tanto i nomi in inglese e i nomi in italiano, un po' così a seconda di come li ho trovati. Anche in questo film, come nei precedenti, peraltro, ci sono dei riferimenti autobiografici. In particolare in questo caso si parla, si racconta un po' di ricordi legati al il paese di origine di Kinky Doc, in cui c'erano molte lettere sparse per terra nei campi, mai recapitate al destinatario, almeno questo ci racconta il film. Nel 2001 invece viene realizzato Bad Guy, un film molto molto crudo, a cui segue poi The Coast Guard, in cui il regista un po' inizia a indagare l'origine della rabbia, della violenza e della follia autodistruttiva in qualche modo. Anche questo è un tema che ritroveremo poi molto spesso. Il primo film che esce nelle sale italiane dopo appunto questa filmografia che già era bella lunghetta è Primavera, Estate, Autunno, Inverno e ancora Primavera. Non è strano che sia così, è stato presentato a Locarno nel 2003 e devo dire ha ottenuto ottimi risultati di vendita in Italia. 2003 appunto, e Kinky Doc stesso lo presenta dicendo: questo film non parla di buddismo o più ampiamente di religione, ma parla della vita prendendo in prestito alcuni elementi della religione buddista. Ed è probabilmente il film apparentemente meno estremo di Kinky Doc. Non è un caso che piace a molti, anche quelli che invece odiano e non possono tollerare il resto dei suoi film. Ma invece a ben vedere si tratta di una storia simbolica sull'ineluttabile, a volte insopportabile condizione umana, e secondo me è tutt'altro che piacevole e rassicurante, anzi proprio per nulla. In Arirang, tra l'altro, film di cui parleremo un po' dopo, c'è una scena molto lunga e intensa in cui lo stesso Kinky Doc guarda e riguarda la scena di Primavera, Estate, eccetera, in cui il protagonista è costretto dal suo maestro a spingere un pesante macigno su per una rupe, e Kinky Doc piange disperato rivedendola, una scena lunghissima e molto pesante anche. Piange per un po', diciamo, il mito di Sisifo che ne esce rivelato, per la colpa del proprio ruolo di regista mai consolatorio, per il dolore che ha causato e quello provato, e Arirang è un po' il modo anche per raccontare tutto questo, ma ci arriveremo dopo. Per adesso sentiamo un pochino quello che ho trovato riguardo alla musica di Primavera, Estate, Autunno e bla bla bla. Thank you. Spring, Summer, Fall, Winter and Spring, per dirlo con il titolo occidentale inglese. Il film successivo invece è La Samaritana, appunto Samaria, in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Berlino del 2004, dove peraltro vince l'Orso d'Argento per la miglior regia. È appunto una latinizzazione riveduta della lingua coreana Samaria, il titolo ufficiale occidentale. 2004, Yae Jung e Yeo Jin sono due amichette che hanno il sogno di andare a fare un viaggio in Europa, di raggiungere l'Europa, e quindi hanno bisogno di trovare i soldi per farlo, quindi si mettono in affari insieme. La prima lavora come prostituta e la seconda le procura i clienti e fa il palo per avvertirla di eventuali retate della polizia se ci sono gli sbirri. Ma questa non è affatto la parte più tremenda del film, quindi insomma è già... ci siamo capiti. Una pellicola devastante, ecco, non saprei come altro definirla, che vi consiglio di guardare abbracciati a un chilo di cioccolata o qualsiasi altra sostanza calmante, antidepressiva, che pensate possa esservi d'aiuto. Si parla di colpa, di percorsi obbligati, di tentativi di redenzione che ti riportano sempre sulla strada iniziale, ed è un continuo mescolare i ruoli di vittima e carnefice all'interno di una umanità disperata, contrapposta a una glaciale crudeltà che veramente t'ammazza, roba che i film horror Kinky Duck se li mangia a colazione proprio. Questo è dalla colonna musica di Samaritan Girl, da Samaria o la Samaritana che dir si voglia, il tema principale, Girls Team di G. Bark. Vortice in cui Kinky Duck praticamente produce un film all'anno o anche di più in realtà. Infatti sempre nel 2004, nello stesso anno, Kinky Duck gira Ferro 3, sottotitolo in italiano La Casa Vuota, ma veramente boh, chissà perché gliel'hanno dato, con il quale vince il Leone d'Argento e il premio speciale per la regia sempre a Venezia. Ferro 3 è probabilmente il film più visto insieme a Primavera, Estate, Autunno, eccetera, almeno il più visto in Italia intendo, e ha ragione secondo me, perché è bellissimo, è un film che parla di quella sottile e inesplicabile cosa che è la complicità. Siamo tutti case vuote, aspettiamo qualcuno che apra la porta e ci renda liberi. Un giorno il mio desiderio si avvera, un uomo arriva come un fantasma e mi libera dalla mia prigionia, e io lo seguo senza dubbi, senza riserve, finché incontro il mio nuovo destino. Questo dice Kinky Duck del proprio film e quello che ci andiamo a sentire è tratto dalla colonna musica di Ferro 3, appunto, questa volta tutta abbastanza strana la scelta, apparentemente, perlomeno, perché è Gafsa di Natasha Atlas. Natasha Atlas, che abbiamo già sentito, se non sbaglio, sulla Slick Chick, di padre tunisino di lontane origini ebreo sefardita e madre egiziana, è cresciuta con quest'ultima, con la madre, nel quartiere arabo di Bruxelles, sua città natale, quindi in qualche modo si può dire belga, ma vabbè, penso che probabilmente il Belgio sia l'ultimo dei suoi tratti distintivi. Ecco, un bellissimo, secondo me, pezzo questo qui, Gafsa di Natasha Atlas. Ascoltatori veramente pistini e puntigliosi che mi fanno notare che mi è sfuggito un colonna sonora invece che colonna musica, e non si dice, è tabù. No, no, mi è sfuggito, giuro, non volevo, perdonatemi. Ora dirò soundtrack, così vi frega a tutti. E sono molto più international. Allora, questo era, che abbiamo sentito adesso, era tratto dalle musiche dell'arco di Chayu, Lullaby nel particolare, appunto da The Bow, l'arco del 2005, quindi l'anno dopo di Ferro 3, Three Iron, presentato anche questo film al Festival di Cannes appunto nel 2005. A bordo di una nave da pesca sperduta nel mare, un uomo di 60 anni sta crescendo una ragazza da circa 10 anni, dopo averla raccolta all'età di 6, ed è deciso a sposarla il giorno del suo 17esimo compleanno, il che è già un intrigo non da poco. La ragazza non ha abbandonato la bimba non ha abbandonato la barca dal giorno in cui vi ha messo piede per la prima volta 10 anni prima. E i due hanno una vita tranquilla e abitudinaria, affittano la barca a giornata a pescatori a cui su richiesta il vecchio predice il futuro. La loro vita cambia quando uno studente, figlio di un pescatore, sale a bordo e il mondo entra a far parte della barca. Altro pezzo tratto dalla colonna musica di questo film dell'arco, appunto, Soaring di Kang Heunil. Thank you. qualità di questo brano era veramente infima, me ne scuso. Però, d'altra parte, non sono veramente riuscita a trovare di meglio, almeno da un punto di vista qualitativo, compressissimo, non si è trovato niente di meglio. Time, arriviamo a Time, 2006, l'ossessione e il terrore per l'incedere del tempo, l'ansia della decadenza, del mutamento, dell'effimero e del possesso dell'altro anche, del controllo, della manipolazione. Un film alquanto lineare, volendo anche semplice per gli standard di Kinky Duck. Su Sentieri Selvaggi, che è un'altra rivista di cinema online, scrivono che questo film parla delle zone d'ombra che corrono tra un abbraccio e l'altro. Io trovo questa definizione bellissima, la faccio mia e probabilmente l'accosto a tutte le cose di Kinky Duck che mi sono piaciute di più. E questo è l'impronunciabile Jung-Woo Nu Shigan, tratto dalle musiche appunto di Time. Nel 2007 esce Somma, Breath o Soffio, chissà perché è tradotto in italiano con soffio anziché respiro, è una cosa che mi chiedo e non ho veramente risposta, anche perché probabilmente è stata fatta con un'intenzione, perché insomma c'è una bella differenza in italiano tra soffio e respiro e non so proprio spiegarlo. Una casalinga piena di solitudine, Hyun affronta la sua depressione e la sua rabbia attraverso l'intensa relazione con un uomo detenuto in carcere. Sono due prigionieri di una diversa prigione che si liberano a vicenda, costruendo una vita ricca dentro la privazione. Uno dei film che ho amato di più, devo dire, di Kinky Duck, anch'esso devastante, un po' come tutti, ma al contempo veramente, veramente bello. Ancora dalle musiche originali del film, questa volta i titoli di coda, che servono un po' a farci entrare anche nello spirito del film, che se non avete visto, beh, diciamo che questa casalinga di cui abbiamo parlato, questa donna, si ingegna per ricreare ogni volta una stagione diversa all'interno della cella, o perlomeno dello spazio per i colloqui dove può incontrare il suo amato in prigione. E quindi ogni volta rappresenta per lui una stagione diversa, cercandolo di fare entrare in quell'incedere del tempo, in quel cambiamento anche che le stagioni portano, e che in un carcere ovviamente non entra, e con essa ogni volta c'è una canzone diversa. Quindi diciamo che un pochino da questo brano qualcosa se ne evince, ecco. 당신이 떠나간 지금 눈이 내리네 외로워 watching in the moon. Gume kuridan. Tatitan mi soa. In un soke chi anne. Hayan nunul machumyo. Korogan kumosu. Echoro in plado. Hayan nunman nerine. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. 하얀 눈을 맞으며 걸어가는 애초로이 불러도 하얀 눈만 내리네. 누이 불러도 하얀 눈만 내리네. 라 E beh, in effetti ho sentito usare spesso il termine agrodolce parlando di Kinky Dog, che in realtà probabilmente è veramente un eufemismo. Ha più senso accostare i termini poesia e violenza e dolcezza e devastazione, ecco, io perlomeno li sento più miei questi. E Breathe, devo dire, li contiene tantissimo tutti. Nel 2008 proseguiamo Dream, arriviamo a Dream, e durante le riprese di questo film succede un incidente molto molto grave. L'attrice principale, in una scena di suicidio, rischia di rimanere impiccata veramente, e Kinky Doc e il resto della truppa si precipitano e riescono a salvarla per il rotto della cuffia. Kinky Doc ne esce devastato, si ritira dal cinema e sparisce per 3 anni. Sparisce proprio fisicamente, andandosi a rifugiare in una montagna sperduta lontano da tutti e da tutto. Racconterà di questi 3 anni in Arirang e noi ne parleremo dopo. Dream invece attraversa la realtà e il sogno confondendo i piani. Doveva succedere che anche Kinky Doc esplicitasse questa parte della sua poetica in un film dedicato, direi, interamente al surreale. Philip Shepard, Farhem Mazhar, Juliette Van Panthegem, Breathe, questo qui, composto da Philip Shepard. Oh, Proprio Kinky Doc che cantava Arirang. Secondo me la vita è sadismo, autotortura e masochismo. Si torturano gli altri, siamo torturati e torturiamo noi stessi. Alla fine molti si accontentano dell'autotortura. Non c'è ragione per non odiare, detestare o non capire la vita umana, ma anche così continuiamo a dimenticarcelo e in un'ottica miope abbiamo bisogno di tempo per guarire dal dolore, dall'odio e per perdonare. Perché vivere è così triste e deprimente ogni giorno? Ecco, questo dice Kinky Doc nel suo Arirang, tra le varie cose importantissime, dense e anche a volte contraddittorie o quantomeno complementari che racconta in questo bellissimo film, perché a un certo punto, come dicevamo, Kinky Doc sparisce per 3 anni e torna poi con questo film nel 2011, uno strano documentario autobiografico che racconta la propria profonda crisi personale. È un Kinky Doc distrutto che si racconta allo specchio, spesso letteralmente, e lo vedi accampato nel suo tugurio gelido mentre si prepara il caffè con la sua incredibile macchina autocostruita, che è una cosa bellissima e vale la pena il film soltanto per vedere cosa è riuscito a costruirsi. Ricava l'acqua dalla neve e arrostisce pesci sulla brace, e mentre pieno di rabbia grida contro chi si è svenduto, chi l'ha abbandonato, e poi piange, si tormenta, si incolpa, si tortura e poi in qualche modo, non si sa bene come, ma in qualche modo ne viene fuori. Questo che abbiamo sentito appunto era proprio la voce di Kinky Doc, e questa invece è la versione di Kim Jong-im di Jeongseon Arirang, che è una canzone, in realtà una canzone per l'infanzia, comunque una canzone popolare tradizionale coreana molto molto molto nota. Oh, Oh, ricordo che quando ho visto Arirang ero seduta in sala, la proiezione era all'interno di un festival a Firenze, e a un certo punto una persona in sala si è sentita male, ma abbastanza seriamente, tant'è che a un certo punto luci in sala e ambulanza, proprio così, e è stato impressionante, perché in realtà tutta la sala ci ha messo veramente tanto a rendersi conto che c'era un problema, perché eravamo, secondo me, tutti talmente compressi e impegnati e col cervello completamente assorto nella compartecipazione al dolore di questo regista che stava raccontandoci tutto se stesso, tutto il suo dolore su questo schermo, che effettivamente il fatto che la persona accanto a te stesse rantolando cioè passava completamente in secondo piano, cioè comunque ci stava. E quindi ecco, è stato un episodio abbastanza rivelatore. Ma tornando a noi, faccio un piccolo inciso ricordandovi, perché sennò poi me lo dimentico e non ve lo dico, che da domani, ovvero da giovedì 17 maggio, inizia il Festival della Letteratura Sociale alla Polveriera a Firenze, quindi vi invito a recarvi di persona ad ascoltare e a seguire tutti i dibattiti, le presentazioni. Il programma è veramente veramente ricco, ci sono un sacco di cose interessanti, bellissime, e o altrimenti se proprio siete impossibilitati a farlo, sappiate che Radio Wombat accompagnerà tutta la 4 giorni con una diretta full time praticamente dedicata appunto a questo festival, quindi potete seguire tutto quello che succede attraverso le nostre dirette, racconti, interviste. E poi chiaramente metteremo a disposizione via podcast nei giorni successivi anche le registrazioni di buona parte di quello che vi faremo sentire in diretta. Tornando a noi, alla Corea e a Kinky Doc in particolare, nel 2012, e siamo già al 2012, il nostro vince il Leone d'Oro alla 69esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il film Pietà. Diciamo che effettivamente Venezia ha premiato molte volte Kinky Doc. Kinky Doc è un regista che ha un filo molto stretto con questo festival. Nel 2012 appunto esce Pietà viene definito dal regista coreano una riflessione sulla tragedia del capitalismo moderno. Il film segue l'incontro misterioso tra un uomo brutale e disilluso che riscuote crediti per uno strozzino e una donna sconosciuta che si dichiara sua madre e gli offre insistentemente la sua devozione. In realtà il rapporto tra i due nasconde un doloroso segreto e il desiderio di vendetta. Thank you. location principale di Pietà è il quartiere di Cheonjiecheon, il passato degradato e abitato da migranti in cerca di fortuna, oggi popolato da neon e centri commerciali. E questo quartiere rappresenta un vero e proprio terzo personaggio del film. Non solo è il luogo delle memorie infantili per il regista, ma anche il simbolo di una graduale sparizione della storia di luoghi e persone inghiottiti dallo sviluppo. Su larga scala ci sono le guerre. Nel nostro piccolo assistiamo comunque a meschini giochi di potere basati sul denaro. Siamo tutti complici di questa situazione, tutti collegati come in una ragnatela. Questo dice Kinky Doc del suo Pietà. In chiusura per oggi, beh, dopo Pietà in realtà ci sono stati moltissimi altri film. Nel 2014 presenta Kinky Doc a Venezia One on One, mamma mia che scegli lingua, e poi l'anno dopo, 2015, Stop, che però in realtà non è mai stato ancora pubblicato, diciamo così. Nel 2016 invece, sempre alla Mostra del Cinema di Venezia, viene presentato The Net, che in italiano, in maniera veramente meravigliosa, come solo noi sappiamo fare, viene tradotto con Il prigioniero coreano, film appunto presentato a Venezia nel 2016, ma uscito nelle sale soltanto adesso. Credo che sia in sala, sì, no, sicuramente in sala adesso nel 2018. Beh, mi viene da pensare che l'unico motivo per cui riusciamo a vederlo nelle nostre sale è le recenti e recentissime evoluzioni geopolitiche della Corea del Nord e del Sud, che quindi hanno fatto arrivare un po' di moda anche da noi la Corea, e quindi non era strano, o non era molto strano, portare in sala un film come The Net. Film che peraltro ho visto e ho trovato bello, molto politico e forse tanto da diventare anche un po' didascalico, probabilmente, cosa che non mi sarei aspettata da Kinky Doc, molto inusuale per lui, che comunque è un film che racconta veramente in maniera chiara, esaustiva, ciò che questo regista pensa di entrambe le parti della Corea e di tutta la Corea in sé, che lui evidentemente, da libertario qual è, non può pensare come un paese dilaniato dai confini senza senso creati da altri. L'ultimo film però di cui ci occupiamo è invece Moebius del 2013, quindi l'anno dopo di Pietà. Latinizzazione riveduta dalla lingua coreana Moebiuseu, credo, chissà, letteralmente in realtà si intende il nastro di Moebius. La trama di questo film è un incubo senza fine che fa star male solo a raccontarlo, quindi non ve lo racconterò, non ci penso neanche. Gioia e sofferenza si rincorrono all'infinito e l'una si confonde nell'altra, come proprio nel nastro di Moebius, di cui non si distingue il dritto dal rovescio. Questo è l'ultimo brano per oggi in scaletta, No Reason to be Shy, The Inventa, e tratto dalle musiche originali del film Moebius, appunto, di Kinky Doc 2013. Con questo vi saluto, ce l'ho fatta a finire questa trasmissione coreana e vi do appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo. Ovviamente l'ho sparata un po' grossa, no, ma dai, ora basta assenze. Mercoledì prossimo ci risentiamo sempre da questi microfoni, sempre su Radio Wombat. Mi raccomando, siate puntuali almeno voi. Ciao ciao. Weightlessly command. There's no reason to be shy. No.